Adesso, appena chiudi gli occhi, puoi prepararti a entrare in trance. Sì, ok? Bene. Ma vado avanti, io vado avanti. Appena chiudi gli occhi, il tuo corpo si prepara a entrare in uno stato di rilassamento profondo. E se cominci a rilassarti, allora puoi avvertire una sensazione di benessere, semplicemente nel modo in cui respiri. E prima o poi ti accorgi dei piccoli movimenti di oscillazione che si accompagnano in alcuni momenti al tuo respiro. E non puoi sapere quando. E non devi fare neppure nulla per comprendere ciò che sta avvenendo, in quanto non è la tua mente conscia che è importante adesso. Ma la tua mente inconscia che guida tutto il processo. Benissimo. La puoi passare a te, okay. Tu puoi continuare con lei. Bene, molto bene. E adesso, appena i tuoi occhi vorranno chiudersi, tu potrai incominciare a provare una sensazione di profondo rilassamento. E prima o poi potrai portare attenzione alle sensazioni del tuo capo, del collo, della schiena. E appena tutto ciò accadrà, il tuo respiro potrà diventare ancora più profondo e ora, quando tutto ciò accade, potranno sorgere nella tua mente inconscia delle intuizioni profonde, utili per il cambiamento che sta avvenendo in te. E non puoi sapere quando tutto ciò accadrà nel modo migliore. E mentre puoi lasciare che... Ok. Ora sei seduto qui, su questa sedia, e semplicemente respirando puoi portare attenzione alla tua colonna vertebrale e puoi notare come semplicemente ad ogni ispirazione e ad ogni espirazione il tuo corpo diventi sempre più rilassato. E non puoi sapere in che momento, né quando, portando attenzione alla tua mano destra, prima o poi avvertirai una sensazione di grande rilassamento, proprio così, e appena avvertirai questa sensazione, allora sarai sicuro che la tua mente profonda ti potrà condurre in un posto molto piacevole, proprio così. E non devi fare nulla, semplicemente respirare. E prima o poi avvertirai una leggerezza nel tuo braccio destro. Non puoi sapere se sarà un senso di pesantezza verso il basso che ti porterà maggior rilassamento. Ed ogni movimento che potrà succedere, proprio così, ti porterà a integrare tutti i processi che dentro di te stanno avvenendo, e non devi fare nulla. La tua mente profonda sa cosa fare, semplicemente respirando. Così. Proprio così. E può essere che prima o poi una nuova sensazione nasca dentro di te. Puoi forse provare un senso di attrazione verso l'alto, e le tue spalle si possono aprire e la tua testa può salire. Semplicemente lasciando andare. Proprio così. E quando questo processo sarà concluso, solo allora e non prima, potrai riaprire gli occhi lasciando che ogni cosa che si deve completare si completi. Ogni movimento, anche più piccolo, indica come la tua mente profonda stia lavorando per realizzare quello che è il progetto migliore per te, per realizzare quella che è la scintilla divina dentro di te. Proprio così. E prima o poi ti puoi accorgere di un leggero dondolio, un piccolo movimento del tuo busto, tornare qui quando lo desideri. Semplicemente respirando.